Vi do il benvenuto a questa serata e invito il nostro ospite ad accomodarsi qui alla posizione, alla postazione. Come vedete, di solito organizziamo anche una vetrina, un saggio di quella che può essere l'offerta che la biblioteca mette a disposizione del pubblico, e quindi alcuni titoli, alcuni libri li trovate qui stasera e sono a disposizione del pubblico iscritto alla biblioteca o che intende iscriversi alla biblioteca. Allora, ringrazio Adel Jabbar per questa conferenza. Il tema, come l'avete visto nell'invito ma anche nella cartolina che distribuiamo di solito, il vicino Oriente nello scacchiere geopolitico, considerazioni su storia e attualità, un tema caldo, attuale appunto e soprattutto delicato, direi. Quindi siamo contenti che ad illustrarcelo questa sera sia appunto Adel Jabbar, che conosce benissimo il territorio di cui si parlerà e soprattutto conosce la storia, ecco, e anche tutti i delicati equilibri che stanno dietro. Quindi vi lasciamo in buonissime mani, vi invitiamo a partecipare anche ad altre iniziative. Quest'anno, fino a Natale, sicuramente la biblioteca organizzerà ogni martedì sera un incontro alle 17:30, come quello di stasera. Infatti vi anticipo che la prossima settimana avremo il libro di Ettore Frangipane che riguarda il diario di Natale, chiaramente sempre declinato in termini storici, di storia locale, quindi se avete piacere e interesse, la prossima settimana sarà la volta di un libro con Ettore Frangipane e di Ettore Frangipane. Mentre vi vorrei segnalare un appuntamento di domani alle ore 17 nella sala della biblioteca, quindi sempre a questo piano, però di là nei locali della biblioteca ci sarà il professor Dobrilla che presenta la nuova edizione del suo libro C'è sempre da imparare. Sarà un'occasione per rivedersi, per rivederlo e per riscoprire alcuni suoi scritti che ha raccolto in questi ultimi mesi ancora di attività, che l'hanno visto così aggiornare questo libro che ha avuto un grande successo. E ultimo messaggio che vi lascio è sempre per la prossima settimana, quindi martedì 12 alle 17:30 Ettore Frangipane. Mercoledì alle 17 ci sarà il nostro gruppo di lettura che si chiama Localmente, un gruppo di lettura che si occupa della narrativa locale, si incontra dopo aver letto un libro tutti insieme, cioè nel senso che ognuno legge sempre questo libro ed è l'interesse questa volta è rivolto al libro di Katia Attenti, Resta quel che resta. Le persone sono invitate a partecipare, chi abbia voglia e interesse. Ricordo l'appuntamento alle 17, è un modo diverso per leggere e per discutere insieme ad altre persone sui temi della narrativa locale, che sta conoscendo un grande successo come narrativa, perché c'è voglia di raccontare questo territorio, l'abbiamo visto anche da un punto di vista televisivo, cinematografico, quindi si vede che siamo interessanti. Allora, con questo io vi saluto, vi ringrazio, lascio la parola al nostro ospite che ringrazio, vi invito a leggere, ad approfondire anche i temi che sono sempre molto scottanti e vi auguro una buona e piacevole serata. Arrivederci. Grazie alla dottoressa Trevisan, che da un po' di anni che collaboriamo insieme. Quindi questo è un luogo sicuramente molto accogliente, soprattutto è fruttuoso di offerte culturali che aiutano a far crescere la mente. E quindi grazie davvero a lei, anche alle collaboratrici e collaboratori suoi, che spesso sono disponibili, a darci una mano dal punto di vista organizzativo. Grazie anche a tutte le persone che sono qua presenti, e quindi al vostro ascolto, la vostra attenzione, la vostra partecipazione e anche la pazienza con cui mi seguirete, perché comunque ascoltare una persona sembra un atto di generosità, secondo me, un dono che si dà all'interlocutore. Quindi vi ringrazio già in anticipo. E la dottoressa Trevisan diceva che trattiamo temi scottanti, io cercherei di raffreddarli in qualche modo, è perché il sapere significa anche questo, di ragionare sulle cose con un certo, come dire, a me non piace la parola oggettività, ma un certo equilibrio e essere soprattutto chiaro nel capire la motivazione, nel far presente la motivazione, ma anche la prospettiva dentro la quale in questo caso mi muovo o si muovo un interlocutore. Quindi, per cui da questo punto di vista, poi, come nella presentazione di questo incontro, anzi, per la verità sono due incontri, uno oggi e c'è poi una seconda puntata il 14 gennaio. E quindi oggi non dico tutto perché altrimenti, no, dopo l'Epifania avremo poche cose da dire. E nella presentazione di questo incontro, che ho scritto io, sono poche righe, però una frase che mi sembra interessante, che la storia, che mi sembra interessante, perché altrimenti non l'avrei scritta, che la storia è fatta di tante pagine, non c'è solo una pagina, sono tante pagine, come dice il scrittore franco-libanese Maalouf, no? A volte dice la storia è una pagina scritta a metà e l'altra metà tocca ai presenti di scriverla. Quindi vuol dire che la storia non è solo fatta di tante pagine, ma anche incompleta, incompiuta. E andrebbe naturalmente anche a volte, anzi spesso, rivista. Anche i fatti vengono rivisti, anche perché spesso i fatti vengono raccontati in base delle opinioni e le opinioni dipendono naturalmente alle dinamiche, no? Del presente o del gioco in quel momento lì che prevale nei rapporti. Quindi, per cui la storia sempre viene interpretata, viene riletta e viene, come dire, vista anche da diversi punti di vista in base alla collocazione, no? Per esempio qua nel nostro piccolo territorio, se andiamo a vedere, possiamo trovarci a confrontarci con tre narrazioni, una tirolese di lingua tedesca, una italiana, una ladina. Ognuna vede quel territorio, vede la propria storia e la storia del territorio partendo naturalmente dalla propria, no? Non solo la percezione, ma anche la memoria che è stata trasmessa. E poi spesso le memorie entrano in negoziato, no? Come ben sappiamo, no? Qua. Le memorie entrano spesso in negoziato, quindi anche le memorie non sono portatrici di verità. Le memorie sono portatrici di visioni spesso parziali. Quindi anche la mia narrazione di oggi è parziale, perché appartiene alla mia esperienza, alla mia visione, alla mia sensibilità, ad una persona che è nata in un altro contesto, ha vissuto gli eventi in un certo modo, poi è arrivato qui sull'altra sponde del Mediterraneo, ha sentito, ha visto, ha letto, ha studiato, no? Gli stessi eventi con un altro sguardo, quindi io cerco di viaggiare tra vari sguardi e spero di poi essere in grado di muovermi bene, soprattutto con certa chiarezza, per offrirvi un prodotto, no? Un prodotto di conoscenza, come dicevo prima, utile ad approfondire e rileggere le cose. Adesso mi siedo, posso? Permesso. Dunque, allora, chi mi conosce, chi non mi conosce, io sono sociologo, quindi già ho una visione, come dire, il sociologo cosa fa? Fa due cose. Guardare, seguire le relazioni che si intessano tra le persone e capire la natura delle relazioni. Due, il sociologo cerca anche di far sì che le persone, la società, siano in grado di produrre relazioni, perché senza relazioni non possiamo stare insieme. Quindi questo è un po', no, quindi seguire, no, lo sviluppo della relazione e nello stesso momento anche cercare di produrre maggiori vincoli e relazioni tra le persone per poter stare insieme. Senza le relazioni le persone non possono stare insieme. Quindi le relazioni è il prodotto di un compromesso fondamentalmente, perché senza il compromesso noi non saremmo in grado di gestire la nostra vita quotidiana. Compromesso in tutto, no? Anche quando cerchiamo di mangiare, abbiamo un momento di esitazione, mangio questo, mangio questo, mangio questo, poi si arriva ad un compromesso. Quindi la vita fatta di compromessi, anche delle cose più, diciamo, banali possono essere ovvie, e le cose più complesse che richiedono e ragionamenti più approfonditi. E quindi io ho in pratica, per iniziare il tema, utilizzo tre premesse. Allora, dicevo, io sono sociologo, mi occupo di comunicazione interculturale. E cosa vuol dire intercultura? Vuol dire rendersi, insomma, avere maggiore consapevolezza dei propri limiti di conoscenza. Questo è il primo atto quando si instaura una relazione interculturale. Due, decostruzione, anzi, ascolto partecipato, o qualcuno li chiama empatico o attivo, no? degli altri punti di vista, con un accogliamento e approfondimento. Questo è finalizzato poi alla decostruzione del proprio immaginario rispetto ai fatti, rispetto alle situazioni in cui si trova o con cui entra in contatto. Questa è la prima premessa. Seconda, l'approccio che utilizzo, quello che oggi viene chiamato un approccio decoloniale. Cosa vuol dire? Vuol dire una lettura critica alla storia che l'eurocentrismo ci ha, no? ci ha fatto interiorizzare. Quindi decoloniale è una lettura di una serie di fatti e andare a esplorare altre pagine, altre narrazioni. E questo tutto avviene all'interno di quelle che si occupa di cooperazione, qua vedo di volti che si occupano di questi temi qua, rapporti nord-sud per anni, no? abbiamo utilizzato queste terminologie nord-sud, il nord ricco, il sud subalterno, o altri studiosi, politologi li chiamano rapporti centro-periferie, il centro, come anche il centro delle città, più carino, e poi mano a mano si va fuori, troviamo un po' di situazioni, magari a Bolzano non si vede tanto, però se andiamo a Milano, Torino, Roma o altro, le periferie effettivamente ci sono diverse situazioni molto critiche. In poche parole, di colonialità, nord-sud, centro-periferie, significa, in una parola, asimmetria. I rapporti del 1500 in poi, da 500 anni, tra l'Europa, nord del mondo, e il resto del mondo, fatta da un centro e a grandissime periferie subalterna, no? subalterna in termini politici, militari, culturali, economici. No? Questi sono fatti che avvengono, vuol dire, ogni giorno raccontate, no? Chi segue la rivista Missionaria lo sa benissimo questa cosa qua, che milita nei movimenti cattolici di base lo sa benissimo, che si occupa di diritti umani, di pace, di cooperazione, questi sono temi all'ordine del giorno. Allora, prima di addentrarci nelle spiegazioni complesse, ma io sono un sociologo viaggio raso terra, quindi non è uno che fa ragionamenti particolarmente sofisticati, quindi state tranquilli. Il termine Vicino Oriente, poi vedremo, perché introduco questo per introdurre dopo il nostro tecnico molto gentile Fabrizio, ci farà vedere 8 minuti significativi di come i termini non sono mai neutri e non sono mai, come dire, oggettivi, appartengono a fasi storiche, a momenti particolari della storria e in base anche al rapporti di forza tra le parti. Quindi anche la parola Vicino Oriente nei libri di storia, no, quando studiamo l'Egitto, Mesopotamia, Vicino Oriente. Poi quando parliamo di questioni politiche e geopolitiche diventa Medio Oriente, giusto? Quindi poi di fatto alla fine il Vicino Oriente o Medio Oriente o Remoto Oriente sta di fatto e spesso è un mondo sconosciuto, perché questo mondo con cui sempre sono stati profondi rapporti di vicinanza, di scambio, di interscambio, di attrazioni, ma anche di frizioni. Come mai spesso quando io sono arrivato all'Italia all'età di 20-21 anni, spesso, dove sei nato? Baghdad. Oh, cosa c'è lì? Ma io dico, ma scusate, sicuramente c'è Aladino, Simbad il marinaio, almeno quello, no? Mille notte. Quindi è un mondo nella percezione normale, come non ci fosse. E questo mi ha fatto interrogare, e per questo io spesso cerco di offrire delle letture, di dire come mai questo mondo così vicino, geograficamente, storicamente, così poco presente? I babilonesi, la Siri, la Cadici, i Sumeri, lo studiamo, ma quelli erano le civiltà allora, 4.000, 5.000 anni, 3.000 anni, l'Egitto, sono civiltà, erano le civiltà più importanti. Il mondo, prima che venisse, o meglio, partisse Colombo verso l'America attraversando l'Atlantico, il mondo era l'Euroasia, il mondo era l'Euroasia, e buona parte dei rapporti, della relazione, dei saperi, della scienza e tutto, si svolgeva tra il centro dell'Asia, ex Unione Sovietica, e il vicino Oriente, che è il Mediterraneo. I rapporti avvenivano lì, il vicino Oriente era un crocevia di rapporti, di scambi, e che poi hanno spinto Alessandro Amanio 300 anni prima di Cristo ad andare lì, non è venuta da qua, e poi ha spinto i Romani e andare verso l'Egitto, Augusto, a fare la sua battaglia contro Cleopatra e Marco Antonio, ma dopo di loro i Bizantini. Quindi questo luogo è sempre stato abitato dai grandi agglomerati o imperi, chiamiamoli così, che hanno reso queste popolazioni vicine, non sono mai state lontane. Poi dopo i Bizantini sono arrivati gli arabi musulmani, e che poi la storia viene codificata intorno a queste esperienze del rapporto con gli arabi e i musulmani. Soprattutto con la nascita dell'Islam diventa una religione concorrente, possiamo dirlo, perché poi l'Islam somiglia molto all'ebraismo, perché è erede di quell'area lì, di questi tre pensieri religiosi, tre fedi, tre fonti di riflessione sull'esistenza, e l'Islam è erede di quella cosa lì. E quindi questo Islam è tanto simile, e quindi diventa un concorrente scomodo, perché è delle stesse famiglie, e nella famiglia vengono i peggiori litigi. E quindi il tentativo, che cosa è? Anche di spellere questo del nostro pensiero, in qualche modo. E come spellerlo? Un po' denigrarlo, un po' svalorizzarlo, un po' renderlo a volte esotico, quando ci piace, no? Perché poi nelle riviste turistiche ci sono l'Udilisca, i bani, no? I cose, tutta una vita, no? Agiate, no? L'orientalismo. E però poi nella versione politica il pericolo, poi alla fine né l'uno né l'altro. È una complessità come la complessità di ogni realtà, soprattutto quando è strata di dimensioni molto grandi. E quindi questo vicino Oriente, dove certamente gli arabi musulmani sono stati interpreti importanti, sparisce in qualche modo della percezione, più che sparisce in parte, ma acquisisce, come dicevo prima, a volte visioni esotiche, a volte visioni di come fosse qualcosa di minaccioso, e quindi qualcosa che diventa quasi incomprensibile renderlo incomprensibile. Allora, quindi questo termine qua, come dicevo, vicino Oriente o Medio Oriente, in ogni caso è l'Oriente sconosciuto fondamentalmente. Per questo io chiedo a gentile Fabrizio di attivarci 8 minuti di un excursus sul termine vicino Oriente, nel tempo quante volte è cambiato e che l'ha cambiato, e la difficoltà effettivamente di avere a che fare con queste convinzioni Occidente-Oriente, no? Vicino Oriente, Medio Oriente, sono delle convinzioni, no? Che non corrispondono nulla di reale. Poi vi spiego dopo alcuni episodi che mi sono capitati all'università quando studiavo sociologia. Grazie Fabrizio. Il Medio Oriente è a Oriente di chi? L'Afghanistan ne fa parte? In altre parole, dove si trova il Medio Oriente? Quella di Medio Oriente è una delle definizioni geografiche e politiche più interessanti. Racchiude un mix di orientalismo, strascichi del colonialismo e imperialismo occidentale. E no, il Medio Oriente non è sempre stata quella regione che oggi si estende dalla costa est del Mediterraneo fino all'Iraq o all'Iran. I suoi confini, sia occidentali che orientali, sono sempre stati estremamente fluidi nel corso dell'ultimo secolo. La genesi dell'espressione Medio Oriente è esclusivamente anglosassone ed è direttamente collegata a quelle di Vicino Oriente ed Estremo Oriente. La definizione di quest'ultima regione è stata quella meno ambigua. Con Estremo Oriente si intendevano la Cina e il Giappone. E il Vicino Oriente? Fino a metà 800 l'Europa e gli europei tendevano a dividere il mondo, sempre da una prospettiva eurocentrica, in Occidente e Oriente. Tuttavia, sul finire del XIX secolo, due episodi storici cominciarono a porre la necessità di una maggiore precisione. Prima le rivolte contro l'impero ottomano nei Balcani e poi la guerra sino-giapponese del 1894 e 1895. La cosiddetta questione orientale necessitò quindi di essere suddivisa in un vicino oriente e un estremo oriente. Nel 1902 l'archeologo britannico David George Hogarth pubblicò un libro dal titolo The Nearer East, traducibile in l'Oriente più vicino, ovvero più vicino alla Gran Bretagna, e Hogarth ne tracciò i confini in modo netto. Questi includevano i Balcani, l'Egitto, tutte le province ottomane fino alla penisola arabica e 2/3 dell'Iran. In altre parole, per gli europei il vicino oriente iniziava a Belgrado, Serbia, che per molto tempo era stata città di confine dell'impero ottomano. Una curiosità, in Serbia e nei Balcani l'attuale regione del Medio Oriente si chiama Bliski Istok, ovvero vicino oriente. Sempre nel 1902 comparve per la prima volta l'espressione Medio Oriente. Il capitano Alfred Thayer Mahan, ufficiale della Marina americana, scrisse un articolo per il National Review di Londra dal titolo Il Golfo Persico e le relazioni internazionali, di cui riporto il passaggio più importante. Il Medio Oriente, se posso adottare questo termine che non ho mai visto, un giorno necessiterà di una sua Malta così come di una sua Gibilterra. La Marina britannica dovrebbe avere la possibilità di concentrare le proprie forze tra la città di Aden, in Yemen, l'India e il Golfo. Mahan non ne delineò i confini. Per lui il Medio Oriente era un'area indefinita tra il canale di Suez e Singapore. Erano gli anni in cui l'impero ottomano cominciava a scricchiolare e i russi avanzavano verso l'Asia. La stampa occidentale seguiva con attenzione la geopolitica dell'epoca. Il Times di Londra inizia una serie di pubblicazioni titolate La questione medio orientale. Il corrispondente, Valentine Carroll, definì la regione in modo più preciso di Mahan. Questa includeva tutto il territorio indiano, comprese le sue acque territoriali, ma anche la Persia, il Golfo, l'Iraq, le coste orientali dell'Arabia, l'Afghanistan e il Tibet. Carroll specificò che si tratta di quelle regioni che in qualche modo hanno a che fare con la politica indiana e dunque con la difesa militare della principale colonia britannica. A inizio Novecento, quindi, il fulcro del Vicino Oriente era la Turchia, quello dell'Estremo Oriente la Cina, mentre il centro nevralgico del Medio Oriente era l'India. Sembrerà bizzarro, ma aveva una sua logica, almeno in quell'epoca. Con lo scoppio delle guerre balcaniche, l'avvicinarsi della Grande Guerra e la conseguente fine dell'Impero Ottomano, il Vicino Oriente dell'epoca venne gradualmente assimilato dal concetto di Medio Oriente. Le nuove definizioni geografiche avvennero anche grazie al segretario di Stato britannico per le colonie, Winston Churchill. Questi istituì un dipartimento per gli affari in Medio Oriente incaricato di supervisionare Palestina, Giordania e Iraq. Il nuovo Medio Oriente andava quindi dal Mediterraneo fino all'India. Nel 1939, quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, le potenze europee avevano diversi interessi nell'area. La Germania nazista, per esempio, intendeva costruire la ferrovia Berlino-Baghdad. La regione continuò ad avere grande importanza strategica ed è per questo che l'esercito britannico creò il Middle East Command, con sede al Cairo, per coordinare le manovre militari in quella regione che andava dalla Libia all'Iran e dalla Grecia fino all'Etiopia. Un'area vastissima, su tre continenti, ma che ancora una volta aveva cambiato il proprio epicentro, non più in India, bensì in Egitto. Successivamente lo stesso Churchill avrebbe rimpianto la propria complicità nell'aver spostato più a occidente il centro della regione. Dopo la guerra, infatti, la confusione tra Medio e Vicino Oriente era ormai prassi comune. Nel 1948 l'ONU formò la Commissione Economica del Medio Oriente, che stilò una lista di paesi che facevano parte della regione: Afghanistan, Iran, Iraq, Libano, Turchia, Arabia Saudita, Yemen, Egitto e Grecia. Questa definizione mandò in pensione l'espressione Vicino Oriente e i successivi eventi geopolitici nell'area, in primis l'accendersi della questione palestinese, ne cristallizzarono l'epicentro. Come abbiamo inteso da questo excursus storico-semantico, sia l'espressione con cui chiamiamo questa regione, così come le relazioni internazionali che l'hanno caratterizzata, sono per lo più frutto del colonialismo britannico e del suprematismo europeo che considerava inferiori le popolazioni locali. Questo è quello che Edward Said definì orientalismo, e cioè una rappresentazione dell'Oriente come luogo arretrato, esotico e subalterno, un altro rispetto all'Occidente. Un approccio che pone le premesse discorsive su cui si fonda poi la missione civilizzatrice e di conseguenza il progetto imperialista dell'Occidente. L'apice di questa politica sono gli accordi successivi alla Prima Guerra Mondiale, a partire dall'accordo Sykes-Picot del 1916, quando Francia e Regno Unito si spartirono le ex province ottomane e crearono le proprie aree di influenza nell'odierno Medio Oriente. Libano e Siria alla Francia, mentre i britannici controllavano Iraq, Giordania e Palestina. Per diversi studiosi, questi accordi sono un chiaro indicatore di come il Medio Oriente, come lo conosciamo oggi, sia un'invenzione coloniale, sostenuta, almeno in termini morali e retorici, dal suddetto approccio orientalista, ovvero un metodo occidentale per dominare, ristrutturare e avere autorità sull'Oriente. Per la corona inglese, quest'area agiva come una vasta zona cuscinetto tra l'Europa e l'India, tutelandone quindi anche le rotte commerciali. Le nuove frontiere tennero poco in considerazione l'eterogeneità di etnie, lingue e religioni che convivevano in questi paesi. I sistemi politici esportati da Francia e Regno Unito si fondavano infatti sullo Stato-nazione, un concetto esclusivamente europeo che si basa sulla sovrapposizione tra Stato e gruppo nazionale, uniformato da una lingua e una tradizione comuni. Ma tutto ciò era difficile da applicare al contesto medio orientale e così nacquero stati senza un unico gruppo nazionale, come l'Iraq, mentre interi gruppi nazionali furono lasciati senza uno stato, come nel caso dei curdi. Secondo diversi studiosi ed esperti della regione, quindi, l'arbitrarietà delle decisioni europee in Medio Oriente piantò il seme delle instabilità politiche che è poi germogliato nelle guerre e nelle rivendicazioni territoriali che ancora oggi sono di estrema attualità. Le forme di opposizione politica all'Occidente e al colonialismo arrivarono in una dimensione inizialmente trasversale, col nazionalismo panarabo, che ha avuto alcuni momenti di rivalsa sull'Occidente, come quando nel 1956 il presidente egiziano Gamal Abdel Nasser nazionalizzò il canale di Suez, cioè uno dei principali interessi britannici nella regione. Per provare a scardinare questa logica eurocentrica, forse, potremmo utilizzare una nuova espressione al posto del colonialistico Medio Oriente. Uno dei primi a proporre una nuova terminologia fu Jawaharlal Nehru, il primo ministro dell'India indipendente, ovvero l'ex baricentro delle macchinazioni coloniali britanniche, che propose di rinominare la regione in Asia occidentale. È una definizione che può suonare strana a chi vive in Europa, ma che restituisce centralità a un continente a lungo vittima dell'imperialismo e garantisce un maggior rispetto alle singole prerogative locali. Inoltre, predilige la definizione squisitamente geografica. D'altronde, tutti i continenti sono suddivisi in regioni che si rifanno ai punti cardinali e se esiste un sud-est asiatico e un'Asia centrale, perché non provare a far riemergere l'Asia occidentale? Questo filmato di 8 minuti credo che ci abbia dato una non chiarezza, se vogliamo, da un certo punto di vista, no? Rispetto come nominare e chi deve nominare certa area geografica. Quindi io nel titolo di questo incontro ho utilizzato le parole, il termine Vicino Oriente. È una scelta mia personale finalizzata a ripristinare effettivamente una vicinanza storica e geografica con l'Europa. soprattutto con l'Italia, perché l'Italia ha avuto sempre di grandi legami tramite le repubbliche, come si chiama, marinare, o Venezia, Genova, Pisa, e Amalfi. Quindi pensate che la Toscana ha avuto un rapporto privilegiato con il Libano per diversi decenni, quindi quindi l'Italia ha conosciuto benissimo tramite questa Repubblica il vicino Oriente. Quindi l'intento mio in questo titolo qua è proprio una scelta personale per ripristinare una vicinanza a questa area geografica nell'immaginario delle persone. Allora, questo vicino Oriente, dicevo, che è stato un crocevia, un anello di congiunzione tra diversi territori per tantissimi secoli, ma tantissimi, però arrivato ad un punto ha perso questa centralità. Ha perso questa centralità, e questo nella memoria delle genti che abita ancora lì è stato un momento, una ferita, no? Ancora, come dire, viene vissuta, no? Perché questa, la perdita di centralità vuol dire poi si sono trovati a vivere in aree periferiche, aree colonizzate, aree, no, subalterne di fatto. E tutto questo è avvenuto in parte, o forse anche una grossa parte, questa è la perdita della centralità, è avvenuta quando spagnoli e portoghesi hanno cominciato a esplorare altre vie di comunicazione, perché una volta era il Mediterraneo, i canali di comunicazione erano, le navi arrivavano fino all'Egitto, fino al Libano, poi di là, per vie marittime o anzi per anche vie Mar Rosso, no? Che poi andavano verso l'India e verso l'Oriente o l'Estremo Oriente, arrivavano comunque fino all'India sicuramente. E quindi però poi, quando nel 1500 inizia la costruzione delle grandi navi, cominciano a accumularsi di saperi anche rispetto alle navigazioni, le correnti di aria, le correnti del mare, degli oceani, quindi gli europei, Cristoforo Colombo, Vasco da Gama, Bartolomeo Diaz, Magellano, spostano il centro del mondo fondamentalmente e scoprono altre vie di comunicazione, per cui questo vicino Oriente è diventato qualche area remota fondamentalmente, quindi ha perso la sua centralità nelle dinamiche storiche, nelle dinamiche culturali, nelle dinamiche scientifiche. Bukhara, Samarkand, questi nomi erano grandi centri scientifici, questi perdono perché si comunicavano con il Mediterraneo tramite l'impero persiano, poi dopo l'impero arabo musulmano, ma dopo del 1500 anni queste vie di comunicazione spostano il centro, spostano i centri vitali, spostano l'importanza anche di questi luoghi, quindi diventano luoghi fondamentalmente marginali, anche se per alcuni periodi sono stati l'impero dei Mughul, gli imperi persiani dell'Ottocento, lo stesso impero ottomano che ha durato fino alla prima guerra mondiale, ma non hanno più interpretato quella vitalità che c'era prima. Il commercio, le dinamiche dei centri commerciali, la dinamicità dello scambio, l'accumulo di ricchezza è venuta meno. Abbiamo imperi giganteschi, territoriali, moderni, che avevano eserciti forti, che dovevano essere sostenuti, e quindi entrano in collusione con altri imperi, come l'Ottomano, in questo caso contro l'impero russo da una parte, poi con l'impero austro-ungarico, quindi diventano, anche per il mantenimento di questi imperi, sono diventati costosi, no? A mantenere l'ordine e la stabilità. Allora, il trattato di Tordesillas del 1494, che è stata formata tra portoghesi, spagnoli, con la mediazione del Vaticano, che rilasciava la licenza ai grandi marinai per andare a conquistare il mondo. In quel periodo lì era il Papa Alessandro VI, con la sua mediazione, si arriva paradossalmente all'unificazione del mondo, però nello stesso momento alla divisione del mondo. Quindi si divide parte per il Portogallo e una parte per la Spagna. Allora, questa spartizione del mondo tra le potenze portoghese e spagnole, no, è stata seguita dal ruolo dell'Olanda e naturalmente poi viene la Francia e l'Inghilterra che entrano, no, in campo per la spartizione del mondo. E l'Inghilterra ha cominciato naturalmente a conquistare l'India, siamo nel 1700, no? In quel periodo lì, poi di queste concorrenze tra queste potenze, inizia anche il periodo del schiavismo, no? Gli schiavi che vengono esportati dopo aver eliminato la popolazione locale indigene, perché poi l'eliminazione, gli stermini sono avvenuti, sono stati un po' il perno della modernità europea, no? Attraversando l'Atlantico nel 1500 sono state, insomma, stermini di popolazione intera. Quindi in questo periodo qua, quindi dal 1500 in poi, anche il mondo musulmano è stato colonizzato, no? Soprattutto nell'est dell'Africa, dove c'erano dei reni islami musulmani, nell'Asia. Quindi mano a mano l'Islam, che sempre ha avuto il mondo arabo islamico in particolare, l'Islam in generale, di essere al centro del mondo, si è trovato, no, a mano a mano ad essere colonizzato, di confrontarsi con delle navi più potenti, di eserciti più potenti, di cannoni più potenti, di saperi anche più potenti, no? Di economia più dinamica. E quindi i musulmani cominciano ad accorgersi piano piano, ma comunque il risveglio non è così, no? Che è uno sotto shock, che è stato, come si dice, messo da parte, emarginato. Quindi il risveglio è stato assolutamente, ha richiesto molto tempo, è molto faticoso. E quindi il tentativo di questo risveglio nascono già dal, insomma, il 1800, soprattutto cominciano a codificarsi tra il 1800 e il 900, correnti di pensiero che oggi possiamo sintetizzare così: nasce un pensiero per rispondere a questo, l'essere periferico, per pristinare un po' di centralità. Nascono tre pensieri, tre correnti di pensiero. Il pensiero tradizionalista, che nasce in Arabia Saudita, quello che viene chiamato wahhabita, e il pensiero riformista, che nasce tra esponenti diversi, soprattutto in India e in Egitto. E poi, più recente, la corrente modernista, soprattutto di impostazione laica, molto influenzata dal pensiero dei modelli occidentali. Questi tre correnti, ognuno a modo suo, ha cercato di rispondere alla sfida della modernità. Come uscire? La domanda è stata: come uscire dalle periferie? Come rispondere al colonialismo? Però mentre gli arabi musulmani pensano, anche le potenze coloniali pensano, no? E pensano più velocemente, con meccanismi più veloci, con dinamiche sicuramente aiutate dalle macchine. Quindi, cosa succede? Come abbiamo visto nel filmato, si arriva qua. L'essere periferico vuol dire, la prima guerra significa la sconfitta dell'ultimo impero musulmano, l'impero ottomano. Insieme all'Austro-Ungarico escono sconfitti. Quindi i territori dell'impero austro-ungarico, noi facevamo parte qua dell'impero austro-ungarico, venivamo poi, dopo la prima guerra, messi, no, la popolazione locale, soprattutto di lingua tedesca, e le Dine si sono trovate in un'altra configurazione politica. Anche molta parte del mondo arabo si sono trovati dentro o sotto, meglio, il dominio inglese o francese, come abbiamo visto nel film. E quindi queste tre correnti comunque non sono arrivati effettivamente a rispondere alle domande perché siamo periferie e come ripristinare una centralità. Però, per un po' di sintesi, il pensiero conservatore tradizionalista di stampo della penisola arabica, che è diventata l'Arabia Saudita, è un pensiero identitario, comunitarista, no? Esaltare alcuni lineamenti dogmatici senza collocarla nella dinamica attuale. Quindi una difesa identitaria, no? Comunitarismo, uno scudo identitario. E questo scudo identitario poi, volente o nolente, finisce ad essere poi di fatto funzionale alle politiche coloniali, perché per potersi reggere il confronto, anzi i suoi esponenti per poter avere un pezzo di potere in quel territorio lì, hanno dovuto alliarsi con l'Inghilterra. Se pensate che la famiglia saudita e la famiglia hascimita che governa oggi la Giordania, entrambi hanno collaborato con gli inglesi nella prima guerra in modi diversi, però hanno collaborato per sconfiggere l'impero ottomano, che è musulmano, questo è per dire che la dicitura religiosa ha una funzione relativa, perché due famiglie religiose musulmane si alliano con una potenza, secondo le loro letture, di infedeli, per poter conquistare il potere su quel territorio lì. Entrambi queste famiglie avevano due consulenti, Lawrence d'Arabia, che conoscete, una figura mitica, e faceva consulenza per la famiglia hascimite. E poi Philby, che ho trovato questo libro interessante, piccolo, di Guido Piovene, un giornalista e scrittore che è stato, insomma, durante il ventennio di certe ideologie, poi finita la Seconda Guerra Mondiale, ha cambiato pensiero. Questo libro lo scrive, ha scritto un bel libro lui comunque sull'Italia che cambia negli anni 60, Viaggio in Italia, Piovene, molto importante, almeno per un sociologo che viene da fuori, non conosce bene la realtà italiana, è molto importante stato, per me almeno. Quindi questa Guido Piovene nel 55 fa questo resoconto di un convegno che si è svolto alla Fondazione Cini di Venezia sul rapporti 55, sul rapporti mondo arabo, Islam e l'Occidente. Quindi non stiamo scoprendo niente, no? L'acqua calda è un tema, l'ha trattato anche Dante, voglio dire, no? Dante Alighieri ha cercato di capire come muoversi in quel rapporto difficilissimo. E quindi Guido Piovene scrive questo libro del titolo Processo dell'Islam e la civiltà occidentale, in cui cita l'altra consulente, Philby, questo libro qua, che collaborava con la famiglia saudita. La famiglia saudita e la famiglia hascimita erano in conflitto tra di loro, però entrambi erano sostenuti dall'autorità inglese, capito? L'inglese sosteneva tutti e due, poi per vedere chi è più forte. Infatti poi i sauditi hanno vinto, hanno potuto cacciare la famiglia hascimita dall'Arabia attuale e li hanno mandati fuori, per cui l'Inghilterra, per accontentarli, le ha dato un po' la Giordania, no? Loro volevano tutto il mondo arabo. Poi alla fine i sauditi hanno preso la penisola araba perché hanno vinto e si sono alleati con la parte forte, quindi li hanno vinto e erano più forti, anche perché le loro alleanze con la parte tradizionalista di Wahhabiti, insomma, gli dava molta legittimità, anche se la famiglia hascimita ha una legittimità perché sarebbero discendenti del profeta, però una legittimità ormai sbiadita, mentre gli altri erano potenze, No? I movimenti tradizionalisti erano ancora forti e condizionavano la politica dei regnanti, i futuri regnanti dell'Arabia Saudita. Quindi per dire di come questo filone tradizionalista e il filone poi modernista, il filone modernista è stato fondamentalmente poi interpretato da filoni, come dire, da militari, Ataturk. Ataturk, nel suo periodo poi viene scritto il libro in Italia sul risveglio islamico, però un risveglio modernista, un risveglio laico, anzi avverso alla tradizione religiosa, come ha fatto Ataturk, perché è stato un pensiero molto radicale. Neanche la Francia ha avuto un'avversità nei confronti della religione cattolica o protestante come l'ha avuto Ataturk, che ha tolto la lingua araba, è significativo questo, per l'uso anche di caratteri, per rompere qualsiasi trasmissione della tradizione nella lingua precedente, ma l'ha sostituito con caratteri, con vocaboli anche di lingua tedesca e francese. Quindi Ataturk, diciamo, voleva così diventare moderno, no? Modernizzare velocemente con la lingua, ha proibito la gente a vestirsi con turbanti di una volta, quindi cambiamenti assolutamente molto radicali. E questo, il modernismo, poi viene in qualche modo ereditato anche dello Shah dell'Iran, di Nasser in Egitto e poi di Saddam Hussein, di Gaddafi, modalità diverse, però comunque con sfumature diverse. E quindi il modernismo, con Bourguiba in Tunisia, ma anche in Pakistan, in Indonesia. Quindi questo modernismo ha due versioni poi. Una versione liberale laica e poi una laica però autoritaria. Che ha vinto? C'è un modernismo autoritario laico, ha vinto. Infatti quando parla di Ataturk, di Nasser, di Saddam, di Gaddafi, sono autoritarismi, però laici. E poi c'è un liberalismo laico, non ha avuto grande chance, perché si tratta qua dell'uso della forza, naturalmente, che ha più forza naturalmente il militare, non è l'intellettuale. Il terzo filone, che sarebbe stato il filone più promettente, il filone riformista, che intellettuali, pensatori, anche nell'ambito religioso, no? Componenti del mondo religioso però molto aperti, come Muhammad Abd, adesso questi nomi al di là, il Kawakibi, sono figure molto importanti, hanno esercitato molta influenza sui contesti urbani, sulla fascia acculturata della società, però purtroppo questo è rimasto isolato, non ha avuto seguito, non ha avuto appoggi né dell'Occidente né della base tradizionale. C'è un passaggio, quando è finito l'impero ottomano, questo è un passaggio molto importante. Il mondo arabo, soprattutto il mondo arabo, non Iran, non la Turchia, ma il mondo arabo del Marocco fino a Yemen, in particolar modo il vicino Oriente, quindi Siria, l'Iraq, Libano, la Palestina, poi la questione palestinese diventa Israele, quindi si aprono altri problemi. Quando si è ritirato l'impero ottomano, questi paesi sono rimasti senza classi dirigenti. Perché l'impero ottomano, il suo amministratori, i suoi dirigenti, erano ottomani, di lingua turca spesso. E quindi con le nuove configurazioni, nuova colonia fondamentalmente, nuovi mandati francese e inglese, hanno instaurato altri governi, altri regimi. Questi regimi non sono più dell'impero, appartenevano all'impero ottomano. Alcuni esponenti militari ottomani erano nell'esercito ottomano e quindi questi sono stati utilizzati per formare nuovi stati. Quindi nuovi stati nascono già sin dall'inizio, dopo la prima guerra mondiale, stati forti, perché sono stati fragili dal punto di vista della legittimità, cioè non hanno mai avuto una legittimità all'interno di questi dei loro propri popoli, l'LGBT veniva da fuori, dalle potenze coloniali, che ha formato le classi dirigenti, e soprattutto queste potenze coloniali, la Francia e l'Inghilterra, volevano governare questi paesi. Come si fa a governare un paese? Hanno subito creato forze dell'ordine, militari e polizie. E sapete che questi non sono proprio apparati, sono apparati per la loro natura, apparati che usano una formula diversa per governare il mondo. Quindi nascono stati, sin dall'inizio, stati deboli, però con governi forti. Sembra un ossimoro. Lo Stato debole perché non ha legittimità, non ha veri classi dirigenti a gestire gli apparati. I primi apparati sono stati gli apparati della forza dell'ordine. E quindi questi stati nascono sempre, come dire, distanti dalle popolazioni. L'hanno vista sempre con qualcosa di coercitivo, di repressivo, di oppressivo. Quindi nascono molte rivolte, sono nate diverse rivolte nei confronti di questi. Quindi sono rimasti paesi, anche come diceva giustamente il film, una distabilità endemica. Quindi dalla fine della prima guerra, se l'Europa ha vissuto benessere, sviluppo, poi vabbè, è stato interrotto, della seconda guerra, lì purtroppo le conseguenze della prima guerra continuano ancora in termini di stabilità, di conflittualità, di forte ingerenza esterna, perché poi, siccome gli stati sono deboli, fragili, cosa significa? Significa poi continuano a vivacchiare diversi gruppi identitari, comunitari, linguistici, religiosi, che rivendicano spesso una loro autonomia del potere centrale. Quindi continuano a produrre distabilità. Quindi per un governatore, per far governare questi, non è assolutamente un'opera facile, anche perché questi gruppi, gruppuscoli, vengono strumentalizzati da fuori. Allora, immaginate, io uso questo triangolo, così per darvi l'immagine, così semplificare la mia spiegazione. Immaginate un triangolo, nelle segnaletiche stradali vuol dire il pericolo, giusto? Stare attenti, stare cauti. Allora, sul cima del triangolo c'è l'ingerenza straniera, sulla base c'è autoritarismo di governi e sull'altra parte dogmatismo tradizionalista, che ha bloccato, tutti questi tre hanno bloccato la dinamica politica, culturale, sociale all'interno di quelle società lì. E questo diventa un problema grosso quando poi dagli anni 50 in poi, dopo la seconda guerra mondiale soprattutto, ma anche prima, come molti popoli del sud del mondo, nascono molti movimenti di emancipazione, dal colonialismo ma anche della subalternità sociale, liberarsi dalle disuguaglianze sociali ma anche dalle ingerenze straniere. Allora cresce col tempo una classe media acculturata, conosce le lingue, magari ha studiato all'estero, ha capito tutta una serie di questioni, la dinamica internazionale, come funziona. Questa classe media ha cominciato a rivendicare un suo ruolo, però in una logica politica autoritaria non ha sbocchi. Quindi viene chiamata questa classe media frustrata. Ha tutta la capacità, ha tutti gli strumenti, ha tutte le conoscenze, ma non ha sbocco perché i sistemi sono bloccati di autoritarismi o tribali o modernisti o familistici, e quindi bloccano un ricambio dirigenziale, ricambio nel paese. Questo è un problema, rimane sociologicamente molto, come dire, aperto. Non a caso la cosiddetta primavera araba, che poi è stata a suo modo anche manipolata, e le classi, queste classi, diciamo, acculturate che ha cercato, anche se per la verità c'è stata una grande partecipazione, però queste classi medie che ha continuato a essere frustrate, e lo è ancora, non ha trovato sbocchi. La classe media, purtroppo, da un certo punto di vista, queste dicono cose che magari adesso... Spesso io ho partecipato a molti convegni, sono stati scritti molti libri su... Si può applicare la democrazia nel mondo arabo o mondo musulmano? Allora, io aggiungo un'altra domanda. Ma ai paesi coloniali o ex colonialisti gli conviene una democrazia nel mondo arabo? Perché questa è un'altra domanda. Questa è una domanda molto cruciale. Perché altrimenti si attribuisce alla tradizione culturale, quindi questa lettura che è culturalista, alla tradizione religiosa, no? Però la questione non sta in questo modo. Cioè, altre cose, perché questi paesi, come l'America Latina, come l'Africa, come tanti altri, sono la periferia del mondo, quindi gli spetta quella di sempre consultarsi con un centro per essere autorizzati a procedere in un certo modo o nell'altro. Queste sono esperienze vissute, cioè, voglio dire, non sono letture, queste sono esperienze vissute da molte persone in quel mondo, in quel mondo lì, che è poi lì, il sud Mediterraneo, l'est del Mediterraneo. Questo è un problema, rimane aperto. Allora, noi che stiamo... Perché... posso alzarmi per favore un attimo, perché mi serve indicare alcune cose. Vedete, il mondo arabo si estende dall'Atlantico, Mediterraneo, Mar Rosso, Mar Arabico, l'Oceano Indiano, qua. Allora, questo non è un aspetto secondario, perché per capire perché è così importante questo mondo qua. Perché questo mondo qua, oltre al fatto di essere anche un passaggio, contiene delle energie, fonti energetiche, ma anche un passaggio importante per i commerci, per l'energia, vie di comunicazione importanti, per cui nessuna potenza vuole lasciarlo, no? Quindi rimane un spazio molto conteso questo. E lo dice benissimo il filmato dell'ISPI. Quindi rimane un mondo conteso. La guerra del Suez sono combattute 56 perché Nasser, perché? Perché era, metteva in discussione tutti i commerci, i rapporti dell'Inghilterra con l'India. Ma quante diatribe, quante dispute i francesi e inglesi per il controllo su queste aree geografiche hanno, si sono inventati di tutto per poter controllare quell'area lì. Quindi c'è questa, da tenere presente, questa subalternità anche sfortunatamente è prodotta di questa posizione geografica e della ricchezza petrolifera. Quindi questo non è da tenere, no? Da tenere in considerazione. Poi in Europa, io dicevo, il vicino Oriente sfumato o viene visto in modo esotico o in modo così minaccioso come un pericolo. In Europa, se ci pensiamo, io questo è un pensiero, l'ho fatto io, ma non solo io, perché io, guardate, parentesi biografiche, perché alcuni di questi miei pensieri non è il frutto solo degli studi, delle letture, dell'ascoltare gli altri, ma anche dell'esperienza. Allora, uno, all'università veniva un professore che si occupava di comunicazione, spesso parlava di Oriente e Occidente. Noi in Occidente abbiamo sviluppato un pensiero razionale, mentre l'Oriente sono rimasti legati a categorie metafisiche. Io, per la verità, continuavo a ascoltare quella roba lì. Era in modo genuino interessato, perché era studente, ventenne, sono venuto in Europa a... Quindi volevo capire queste diciture che cosa implicherà realmente. Avevo un italiano naturalmente, no, non è proprio eccellente, però non c'è, volevo capire. Quindi mi sono buttato tra, non so, eravamo proprio un corso, era frequentantissimo. cosa mi vede, perché di solito gli studenti sempre hanno paura di chiedere al professore, perché dopo si fa l'esame, quante voti mi dà, no? Beh, insomma, sappiamo. Ho tenuto anche io degli esami, per cui so come. Allora, dico, mi scusi, ma l'Occidente inizia dove finisce? E poi da là cominciare a dire, questo è l'Oriente, da qui e fino a lì, per capire questa metafisica dove lo collochiamo. Questa sia povero, è una domanda così banale, di un limuccioso, questo qua, poi anche non parlava bene l'italiano, ma che è questo? Mi guarda, però spiazza, mi fa, ah sì, sono delle convinzioni, le cose nella realtà molto più complessa, però io non ho mollato, no? Perché questo è complesso, come dire, interessante, no? O come dire, empatie, no? Sono parole che sempre ho avuto. Scusi, ma complesse, per esempio, qua la religione d'ambiente e il cristianesimo con la varia sfumatura, è razionale, metafisico, viene dall'Oriente, è nato in Occidente, perché Gesù Cristo l'ha detto un po' nostro, eh? Cioè, anzi, più nostro che... Allora, naturalmente, di fronte a questo mi fa... Sì, queste cose certamente sono da prendere in considerazione, perché voleva andare avanti, però questo mi ha fatto pensare alla categoria con cui si pensa, no? Di ridurre la complessità, semplificare, perché le nostre abitudini sono il prodotto di semplificazioni, perché psicologicamente abbiamo bisogno di semplificazioni. Allora, alcuni insegnanti, secondo episodio autobiografico, della scuola allora erano, nessuno li ha fatti corsi di comunicazione interculturale, di mediazione interculturale, erano sveli per conto loro. Venivano all'università a cercare studenti stranieri per poi invitarci nelle loro classi, scuola media o superiori, a raccontare. Alcuni erano ingegneri, alcuni studiavano scienze, alcuni studiavano come me, no? Disastri umanistici. E allora, però io prima di andare alla classe, chiedevo ai professori di farmi vedere i libri di storia, di geografia, no? Come insegnano. Allora leggevo, spesso trovavo la radice dell'Europa, poi l'Europa è il nome di una nata da un matrimonio, no? Di un stupro, poi alla fine, no? Di un, che è un dio greco che è andato a rapire una del Libano. È uscita Europa, no? Europa, che insomma, anche Europa è nostra alla fine, no? Da un certo punto di vista. Allora, al di là delle rivendicazioni di Brand, no? Allora, l'Europa, cos'è? Le tre matrici dell'Europa: filosofia greca, cristianesimo, Roma. Ma scusate, la Bibbia, tutto sommato, è un prodotto delle tradizioni mesopotamiche, ma anche prima della religione monoteista. Il diluvio universale le raccontava Gilgamesh 2000 anni prima di Cristo, scritto in lingua accadica, primo impero. La Grecia sempre ha avuto rapporti più con il mondo di là che con il mondo di qua. La cultura ellenica che ha lasciato, no? Alessandro Magno, con cui costellato tutto il Mediterraneo fino all'India, no? Di città di, no? Ellenica, non so, infatti l'Egitto, la Cleopatra era regina ellenica. Roma l'hanno rimpicciolita, Roma era anche dall'altra parte, giusto? In Marocco, in Tunisia, in Libano, in Palestina, era Roma, l'impero romano, e l'hanno rimpicciolito, che hanno torto, hanno escluso gli altri. Quindi questi, ho cominciato a pensare, ma queste tre matrici c'entrano anche con l'esperienza storica delle altre popolazioni. Quindi per dire che le visioni di come anche la storia viene confezionata in base ad una memoria molto parziale. Quindi il pensiero europeo fondamentalmente condizionate da tre correnti. Corrente religiosa cristiana, che sempre ha visto l'Islam come corrente. Sono un nemico, però devo dire che degli anni 60 in poi, del secondo concilio, da questo punto di vista il mondo cattolico ha fatto grandissimi passi in termini di dialogo, in termini di rapporti. Poi c'è il pensiero liberale, colonialista. L'altro è un, come diceva il filmato, un, come diceva Kim Bling, il fardello dell'uomo bianco. Fardello, sapete cosa vuol dire? È una parola araba. Vuol dire un dovere nei confronti di Dio. No? Sì, fardalla. No? Diventa fardello. Allora, e poi il pensiero anche materialista marxista. Come vede gli altri, anche lì li ha guardati in termini evoluzionistici. Quindi queste tre correnti condizionano comunque l'immaginario, no, del pensiero occidentale, perché quello che viene trasmesso in qualche modo, no, nei libri, nella lettura, in tante cose, nei media poi non ne parliamo. Per cui queste tre correnti sarebbe importante, no, tenerle presenti quando guardiamo quel mondo lì. Quindi abbiamo un sguardo, necessita una decolonizzazione. Ma decolonizzazione non vuol dire che accettare l'altro incondizionatamente, ma comprendere la complessità dell'altro, capire i punti di vista, avere un pensiero critico. Critico vuol dire distinguere. Siete... Allora, posso andare avanti un po'? Allora, la prima guerra mondiale, la spartizione, come diceva giustamente, e questa spartizione ci ha lasciato quel mondo lì della patata bollenti. Intanto la destabilizzazione di tutta l'area, da 100 anni così. Io, i miei bisnonni, i miei nonni, mio padre, io, i miei nipoti, tutti hanno vissuto una destabilizzazione continua, un'area contesa. Una volta con gli inglesi e i francesi tra di loro, una volta poi questi qua, seconda guerra mondiale, hanno lasciato gli spazi agli Stati Uniti, quindi iniziate le cosiddette guerre fredde, Russia, il blocco sovietico, il blocco statunitense. Finito il muro, peggiorata la situazione. Perché finché reggeva quel muro, no? Reggeva, no? Governava, rappresentava, regolamentava i conflitti. Dopo la caduta del muro nessuno regolamentava più nulla, anche perché sono cresciute e evolute delle nuove potenze locali. L'Iran non è l'Iran della prima guerra, non è l'Iran della seconda guerra, non è l'Iran dello Shah, la Turchia non è la Turchia dei generali e della NATO. È della NATO ancora, però comunque sono potenze locali che loro quanto stati e hanno classi dirigenti, a differenza di paesi arabi che purtroppo scarseggia di classi dirigenti che abbiano consapevolezze di cosa vuol dire gestire uno Stato e di avere un ruolo nello scacchiere geopolitico, un nanismo. Il mondo arabo, dal Marocco fino al Yemen, soffre di un nanismo politico terrificante. Ma questo non va bene, no? Perché questo poi di fatto destabilizza ancora, nel senso che quando è fragile la classe dirigente vuol dire anche non la redini, perde la redini della situazione. Allora, quindi la Turchia e l'Iran diventano anche altre potenze supplementari che rivendicano aree di influenza nella zona. Quindi si complica e si è complicata naturalmente, il tema anche dell'attualità, la creazione dello Stato di Israele. E di questo noi approfondiremo, perché lo Stato di Israele entra in questo schema. quello schema, abbiamo rapporti nord-sud, centro e periferie, rapporti coloniali. Altrimenti non ci spiega. E anche questa situazione qua, di tutta la destabilizzazione del vicino, Medio Oriente, volete come volete, dell'Asia occidentale, per tantissimi decenni sia la Francia che l'Inghilterra potevano stabilizzare questa situazione qua. Gli Stati Uniti poi, dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, potevano destabilizzare perché avevano tutte le carte. C'era la Russia, ma il mondo arabo tendenzialmente, culturalmente, questi che governano sono fondamentalmente filo americano, perché di mentalità capitalista, credono nel neoliberalismo, non sono come si immagina, chissà, oddio, anzi, se volete introduco questo tema, i movimenti soprattutto religiosi della seconda guerra in poi sono stati degli alleati fedelissimi alla politica americana. Prima colpo di Stato avvenuto in Indonesia nel 64 da movimenti religiosi sostenuti dagli Stati Uniti. 64. E il tradizionalismo saudite è stato sostenuto dagli Stati Uniti. La ribellione dell'Afghanistan contro l'Unione Sovietica, anche un altro Islam. La spartizione dell'India nel 1947. C'era il congresso di Gandhi e la Lega Islamica. L'Inghilterra ha simpatizzato per la Lega Islamica perché non voleva perdere tutta l'India, perché Gandhi era anticolonialista. Il congresso aveva un indirizzo anticoloniale e volevano mantenere, quindi il Pakistan sembra rimasto poi legato, rimasto nell'orbita inglese. Quindi questa è la funzione dell'Islam politico, sempre stata funzionale al disegno occidentale. E rompe questa tradizione, le rompe l'Iran nel 79, né est né ovest, né con la Russia né con gli Stati Uniti. Questo è stato lo slogan della rivoluzione iraniana per un'autonomia, quindi voleva continuare, diciamo, quello che è nato negli anni 50, metà anni 50, credo nel 56, i movimenti non allineati né con l'uno né con l'altro, ma per rivendicare darsi una nuova fisionomia. L'Iran ha voluto interpretarla a modo suo, dopo naturalmente il 79 ormai Nasser non c'era, quindi altri esponenti importanti, e quindi l'Iran interpreta questo naturalmente con una dottrina religiosa. Allora, adesso mi chiedete, anche nella primavera araba cosiddette, vengono fuori i movimenti religiosi. Qualcuno chiede perché? Perché l'autoritarismo che ha governato i governi autoritari di stampo liberale laico, liberale nel senso economico, non in termini economico, non in termini politici. Autoritarismo laico, liberale laico, che solo sul piano economico ma sul piano politico è autoritario, come la Cina oggi. Questo autoritarismo in pratica ha prosciugato la società civile di qualsiasi dinamica politica. Quindi ha soffocato la vita culturale, la vita politica, solo se vengono autorizzati sindacati, associazioni di lavoratori, associazioni delle donne, associazioni di giovani. Quindi l'autoritarismo in grosso modo è responsabile del soffocamento della dinamica sociale e politica. Per cui cosa è rimasto? È rimasto la tradizione religiosa. parlando del profeta, dirà quattro versetti, no? Due detti del profeta, li conoscono quasi tutti. E rimangono i luoghi della moschea, ma anche la moschea. Sono state per anni in alcuni paesi, si chiamavano la moschea del governo e la moschea del popolo. La moschea del governo vuol dire la predica di venerdì veniva trasmessa dal governo centrale e tutti gli imam di venerdì leggono la stessa. Immaginate che un prete di domenica legge la predica dalla Sicilia fino a Val d'Aosta. Quindi nel mondo arabo succede questo. E poi la gente non andava nella moschea del governo, naturalmente, vanno nella moschea popolare e la moschea popolare venivano controllatissima. Quindi per cui anche qui queste, il discorso di attribuire certe problematiche o cause di certe problematiche alla religione islamica, anche queste andrebbe riviste alle luce di fatti. Allora sta di fatto qual è la prospettiva? Perché poi dopo tutto questo che è una via d'uscita? Allora noi ci troviamo di nuovo in un mondo, il BRICS stanno crescendo, la Russia difende le sue aree di influenza, perché poi la logica è la stessa, ognuno difende, come dire, tira l'acqua al suo mulino. Quindi niente di... Poi naturalmente ognuno dice io sono migliore di questa parte perché siamo democratici. Dall'altra dicono noi difendiamo la tradizione nei confronti di una modernità immorale, no? Quello che si dice anche in India, in Cina, no? in Iran, in Russia, diventano baluardi della difesa delle tradizioni. E da questa parte la difesa della democrazia. E poi questa democrazia, poi se uno va a vedere, come diceva, c'è un episodio, una volta in passato, un dirigente, grande dirigente francese, è andato in un paese africano, si è confrontato con dignitari, con persone importanti, con anche intellettuali di quel paese africano. E uno di questi intellettuali, dopo aver finito il rappresentante della Francia, il suo discorso, le rivolge la parola, dice: guardi, caro signore, io sempre sono stato simpatizzante della cultura francese, dei valori della rivoluzione francese, liberté, fraternité, liberté, poi l'altra, egalité. Sempre mi sono rimasto sempre affascinato. Però guardando quello che è successo in Africa, che le avete governate per tanti anni, le governate ancora, non ho visto questa egalité, liberté, fraternité. E allora il dirigente subito ha capito e gli fa: sì, ma scusi signore, questi non sono prodotti per l'esportazione. Allora c'è una contraddizione di fondo, non le dico io ma le dicono oggi in tanti. Questa democrazia come va tradotta, in che termini, come si può gestirla, come far tararla alla varia realtà? Poi effettivamente c'entra, interessa molto in instaurare logiche dinamiche e democratiche? Io ho un po' delle domandine. Perché gli dico questo? Perché io sono nato in una famiglia a Baghdad che ha simpatizzato per il parlamentarismo francese e inglese quando l'Iraq era in qualche modo soggiugata dall'Inghilterra. E ogni volta che la gente votava una compagine parlamentare che non piaceva all'Inghilterra, il Parlamento dopo due giorni veniva sospeso. Allora molti di liberali che erano affascinati, perché a chi dispiace di poter scegliere chi li deve governare? Nessuno. Allora è successo che diversi di questi liberali affascinati del parlamentarismo inglese alla fine si sono stufati e sono diventati marxisti-leninisti. Quindi il risultato controproducente di alcune, no? Alcuni stili che alcuni paesi coloniali o ex coloniali utilizzano nei confronti degli altri. E quindi i popoli però oggi sono molto più svegli. Infatti, perché non si riesce a governare bene? Perché una volta una potenza coloniale andava e per un po' di anni riusciva a controllare. Non è giusto? Insomma, facevano le strade. Oggi neanche il colonialismo è come una volta. Come la nebbia non è come una volta, come la neve non è come una volta. Quindi sono cambiate, perché i popoli oggi anche sono più consapevoli, rivendicano diritti, perché poi con la rivoluzione tecnologica, con la diffusione dei saperi e con anche, insomma, ogni popolo ha un po' di orgoglio, non mica solo alcuni. Quindi tutti questi sono fattori che stanno rendendo il nostro mondo più destabilizzato. Che facciamo? Torniamo a rendersi consapevoli delle nostre conoscenze, che ha bisogno di essere incrementata, di ascolto maggiore, di cambiare la categoria con cui si guarda il mondo, ma tutti alla ricerca di un compromesso che mette, faccio adesso una retorica moralistica, etica, però secondo me è giusto, che mette al centro la dignità di ogni persona, di ogni essere vivente, di ogni creatura. Questo nel 1968 Papa Wojtyla ha invitato vari esponenti di vari vissuti religiosi, grandi, piccoli, medi, di media misura, no, di varie misure, a confrontarsi, incontrarsi ad Assisi, ma non gli ha detto ognuno viene a spiegarmi la sua dottrina religiosa. No. Come affrontiamo le sfide di oggi? L'ambiente, la giustizia sociale, la disuguaglianza, la dignità delle persone? Credo che sono domande a cui, no? Anche parlando del vicino Oriente, diventano pertinenti, perché senza quello che dicevo, qual è la motivazione del mio ragionamento, ma quali le prospettive? Io personalmente, le mie prospettive è quella di convogliare tutte le risorse mentali e materiali perché l'essere umano abbia una dignità in tutti i luoghi, dovunque. Qui mi fermo e fatemi le domande, l'esame, quello che volete. Grazie. Uccidere, affermarsi per quei meccanismi che lei ha spiegato benissimo in modo molto interessante. Ma succedeva così anche nelle nostre contrade, in quei secoli in cui la sovrapposizione tra il potere religioso della Chiesa e quello statale, quello politico, erano talmente intersecati che soffocavano qualsiasi tipo di elaborazione, ad esempio attraverso una classe borghese illuminata che potesse produrre poi quello che produsse poi attraverso la rivoluzione francese o anche i commercianti del 300 fiorentino che hanno prodotto poi i vari Dante, eccetera. Per cui, più che sentirmi colpevole perché appartengo ad un mondo che in teoria dovrebbe aver sfruttato, le faccio un altro esempio. Noi siamo un paese un po' strano, anche un po' bizzarro, anche un po' ridicolo in alcuni casi, no? Rispetto all'Inghilterra, se ci mettiamo a confronto dal punto di vista della capacità coloniale con gli inglesi, ovviamente ci facciamo la figura dei parenti poveri. Però abbiamo avuto anche noi la nostra esperienza coloniale. In Eritrea, ad esempio. E la faccio breve. Quando poi finì tutto questo e andò al potere in Etiopia, mi aiuti lei, Mengistu? Mengistu, sì. Con l'aiuto dell'Unione Sovietica, eccetera, instaurando una... Quella, quella, quella, quella, sì. Scusate. La prima cosa che fece Mengistu fu di sterminare tutta la classe media eritrea, che era cresciuta sotto la sanguinosa, la vessatoria, sotto il giogo dell'occupazione italiana. Poi sentì una trasmissione, tra l'altro, su questo argomento. C'erano dei giornalisti di Rai 3 che cercavano in tutti i modi di far dire a qualche eritreo che gli italiani erano cattivi, non ne hanno trovato uno, non sono riusciti a farglielo dire. Non lo so, a me sembra che bisognerebbe uscire. Poi lei diceva che il colonialismo interrompe, frustra, blocca. Non... Quello cinese, ad esempio, funziona benissimo, non ha perso colpi, si è semplicemente adattato per l'ennesima volta all'infinita capacità dei dirigenti africani, ad esempio delle classi dirigenti africani, di metterlo in quel posto alle loro popolazioni, sfruttando tutte le loro risorse, svendendo i loro paesi e le loro popolazioni alla potenza del momento. In questo momento, se qualcuno si deve vergognare per quanto riguarda l'Africa, non sono certo gli europei, ma sono i cinesi. Non lo so. Voglio dire, io non so cosa succederà in Oriente nel prossimo secolo, ma mi auguro che vivano e soffrano le stesse lotte, le stesse sofferenze che abbiamo subito noi per diventare più consapevoli, per scardinare questo perverso meccanismo religioso che soffoca qualsiasi tipo di progresso, eccetera, eccetera, eccetera. No, adesso non voglio fare il comizio, ma... Per cui, poi io ero venuto qui stasera perché avevo una curiosità morbosa di sentirla parlare del Medio Oriente in termini di Israele e Palestina. Ed ero venuto molto prevenuto, glielo avviso che... Poi li vedo anche dai libri che... No, capisco le aspettative, però questo è un tema che io tratterò la prossima volta, perché ho cercato questo incontro qua di inquadrare un po' gli schemi in cui mi muovo, no? Perché la questione palestinese, Israele o Palestina, necessita uno schema di ragionamento, perché altrimenti diventa una serie di slogan, no, di moralismi e di parzialismi che secondo me non aiutano a comprendere la cosa. Come abbiamo ben visto nelle nostre università. Com'è? Come abbiamo visto ultimamente nelle nostre università. Vabbè, comunque a me dispiace, io non volevo, penso che sono stato chiaro, lei le ha toccato chiaramente il discorso del fattore coloniale, però... Io ho cercato anche di linkare tutta una serie di cose, no? Cioè, oltre le debolezze delle classi dirigenti, la dottrina, no, tradizionalista, no, che blocca una dialettica di pensiero, la logica sociale compressa di autoritarismi e di tradizionalismi. Credo che ho linkato, non sono mono... Incredibile. È una storia a opinioni personali in base a quello che uno legge. Lui ha letto qualcosa, io ho letto qualcos'altro. Così il fascismo forse non è neanche esistito. Forse non è esistito neanche il fascismo. Siamo i riflessi condizionati. Scatta immediatamente la contrapposizione ideologica. Scusate. Incredibile. Opera benefattoria nei confronti dell'Africa. Questo è il succo del discorso. E quindi noi dovremmo passare il resto delle nostre generazioni del futuro, dovranno passare il tempo a battersi il petto. Le popolazioni sudamericane dopo il 1500 sono state sterminate da chi, se non dagli spagnoli e dai portoghesi? E quindi perché si parla lo spagnolo in Sud America? Perché si parla il portoghese in Brasile? Perché siamo andati a portarli lì appunto. Perché si parla il francese? Sì. Scusate, possiamo ripristinare un po' di ordine? Però non sì. In generale Graziani, sì. Ma quello era un criminale di guerra. Sì, scusate, per favore. No, giusto. No, no, io, cioè nel senso che sì, scusi. Il Signore si è rivolto a me dicendo che io ho cercato di sottolineare il fatto dell'ingerenza coloniale. È lungi da me ridurre la complessità di un fattore. Questo vorrei chiarirlo, no? Quindi i fattori sono tanti, le responsabilità sono tanti, e poi, come dice a volte Nietzsche, le storie hanno una logica cieca, a volte anche involontariamente vengono combinate delle cose. Quindi sicuramente le questioni sono molto più, come dire, complicate e non attribuibile a cose. Del resto io parlo dell'Italia che ho conosciuto a Baghdad, l'Italia che ho letto è il cinema italiano, per esempio. Il cinema italiano l'ho coltivato, no? E molto, soprattutto il cinema di autore, grandi scrittori, insomma, da Moravia a Ignazio Silone, ad altre tante figure. Quindi, vuole dire, i rapporti con la cultura sono anche, hanno diverse sfaccettature. Però io, naturalmente, ho parlato, non è con l'italiano che... ho parlato con un disegno politico che era interpretato da classi dirigenti che avevano una certa idea che magari non corrispondeva, no? Anche la guerra, quando dicevano l'autorità di un paese, magari contro la volontà di una fascia importante della popolazione. Quindi la popolazione è sempre più dialettica, più varie, no? Più variegata rispetto agli indirizzi politici che vengono calati dall'alto. Probabilmente c'erano certe politiche che sono venute calate dall'alto, calate anche sui paesi europei stessi, sulla popolazione europea, come sugli altri. Per cui su questo naturalmente sono assolutamente ben consapevole. C'è Franco. Prego, Franco. Sì, ho trovato molto interessante quell'excursus sulle tre correnti principali che si sono mosse nel mondo islamico e storicamente, insomma, no. Vinto o superato certi momenti. Vorrei che spendessi qualche parola, se hai voglia, sullo sciismo, perché oggi la forza dell'Iran e dei suoi proxies, no, gli Houthi, Hezbollah, gli Hashemiti in Giordania, è proprio una forza popolare che parte da una credenza radicata nello sciismo, no? Se non sbaglio, loro credono nel Mahdi che sta per arrivare, sono pronti a tutto per quello. Apparentemente, no? Poi ci sono spinte politiche, interessi economici dietro sicuramente, però soprattutto forse li vedo negli Hezbollah questa visione millenarista che li porta a impegnarsi fino alla morte tutti i giorni. Volevo capire un po' se vedi, ti sembra anche a te importante questo aspetto nel mondo islamico, che numericamente è minoritario, perché gli sciiti sono il 15-16%, no? Di tutti i musulmani. Grazie Franco. Quando mi libero dai sciiti e dei sunniti? E no, domande, lo so che mediaticamente viene spesso buttato questo schema, no? E che viene come per analizzare i conflitti o per attribuire questa differenza come fosse la causa principale di quanto avviene. Faccio degli esempi, perché poi in Libia non ci sono sciiti, però si scontrano. In Somalia non ci sono gli sciiti, però si scontrano. In altri luoghi, quindi... Per cui, anzi, posso anche aggiungere che l'Azerbaigian, repubblica ex Unione Sovietica caucasica, in conflitto storico con l'Armenia, per, insomma, penso che l'Azerbaigian è un paese, il secondo paese a maggioranza sciita dopo l'Iran, poi dopo viene l'Iraq, a maggioranza sciita, però è politicamente distantissimo dell'Iran, anzi contrario all'Iran, e ha buonissimi rapporti sia con gli Stati Uniti che con Israele, nonostante che buona parte delle sue maggioranze è sciita. Ha rapporti con la Turchia? Sì, ha buoni rapporti anche con le Turchie. Infatti sia Israele che la Turchia hanno aiutato l'Azerbaigian per sconfiggere nell'ultima guerra l'Armenia, militarmente, con le armi. Quindi per cui a volte la politica molto fluida e molto mobile. Quindi le diciture religiose, come diceva la prima guerra, due famiglie rivendicavano le legittimità religiose come la famiglia hashimite e saudite, si sono alleati con gli inglesi contro gli ottomani che erano musulmani come loro, e anche qui, no? E quindi gli sciiti lo schema sciiti sunniti non ci spiega molte cose. Anche nell'esperienza, per esempio, dell'Iraq, il 2003, l'Iraq, quando sono arrivati gli Stati Uniti, 2003, sono passati 20 anni, 21 anni fa, in collaborazione con alcune correnti sciite e con il silenzio delle grandi autorità religiose sciite, Sistani, che è Najaf. Questi dettagli di solito non sono dettagli, sono cose centrali, però vengono buttate lì perché lo schema, il format con cui ci vuole qualcuno vuole farci utilizzare per spiegare le cose, non regge. Allora, Hezbollah nasce nell'82, problematica di Libano sono molto prima, come Hamas nasce nell'87, quindi molto la questione palestinese già iniziata anche nella seconda metà dell'Ottocento, quindi prima anche della Shoah, che è la catastrofe che hanno vissuto gli ebrei dopo i tanti pogrom in Europa. Il progetto era concepito dagli inglesi già nella seconda metà dell'Ottocento, anche prima, e su questo poi parleremo, anche sul peso dei sionisti cristiani che hanno cominciato a formulare certe teorie prima, molto prima, del sionismo ebraico. Quindi a volte questo utilizzo delle categorie religiose come le categorie culturaliste, come le categorie confessionali, reggono fino a un certo punto. Quindi oggi ci sono nell'area, nel vicino Oriente, grosso modo, ci sono due progetti. Uno progetto interpretato dagli Stati Uniti, e naturalmente Israele fa parte di questo schieramento, e l'altro, in qualche modo, non dico sostenuta, perché la Russia e la Cina non stanno sostenendo come gli Stati Uniti, cioè sta entrando con i suoi finanziamenti, con le sue armi, con i suoi portaerei, con le sue diplomazie, bloccare qualsiasi risoluzione delle Nazioni Unite quando si tratta di risolvere la questione. Quindi, in qualche modo, ci sono due progetti. Un progetto interpretato dall'Iran, in difesa della sua area di influenza, dei suoi valori, dei suoi interessi, come qualsiasi altro Stato. Turchia, in qualche modo, anche lì, ha un suo terzo, perché la Turchia sia rispetto all'Ucraina che rispetto alla questione israelo-palestinese, ha un gioco un po' particolare, mantiene una certa autonomia nel muoversi nell'arena per vedere che cosa viene fuori, anche perché ha vincoli della NATO, la Turchia non dimentichiamo, è un paese della NATO. E quindi l'Iran, fondamentalmente l'unico oggi, Siria ormai disastrata, però l'unico due paesi, forse un po' l'Algeria, sono pochi i paesi musulmani che hanno un'autonomia politica. L'Iran in particolare, la Siria, fino ormai la Siria è spartita tra gruppi fondamentalisti terroristici, tra Turchia, quindi Turchia ha un suo progetto e si sta, come dire, collocando le sue piede a una parte del nord Siria, c'è l'esercito turco, una parte del nord dell'Iraq, e c'è l'esercito turco, quindi si sta posizionando la Turchia. L'Iran invece interpreta dopo il 79 un'emancipazione a suo modo della zona. Questo ci fa tornare, vedete, perché poi la storia sembra ci sono delle rotture gigantesche, ma no, la storia poi continua, come l'Unione Sovietica, pensavamo che il conflitto tra l'Occidente e l'ex Unione Sovietica era il comunismo. Finito il comunismo, la Russia è diventata ipercapitalista, però il conflitto è rimasto. Quindi ci sono delle esigenze geografiche e storiche che rimangono, di fattori di continuità. Così come l'Iran, vi ricordate le guerre persiane e greca? Torna. No? L'Iran vuole avere un'area influenza verso il Mediterraneo e gli altri cercano in qualche modo impedirglielo, questo sbocco, e ha paura naturalmente anche per il suo assetto, quindi il gioco, come si chiama quel gioco, il risico nella politica e nella geopolitica è variabile, una variabilità, spiegarlo con certe cose, con elementi dottrinali o confessionali o religiosi è importante, però non spiega la causa, anche perché i gruppi come i gruppi terroristici criminali di assassini come ISIS, Daesh e compagnia bella e Qaeda, Hamas non c'entra assolutamente niente. Sì, scusi, finisco. No, perché non è la questione di fare tutto l'erba un fascio, perché per avere un ragionamento serio, nel ragionamento dovremmo essere seri. Io qua non voglio fare, no, perché sono strutture diverse, realtà diverse, situazioni diverse, condizioni storiche diverse e manipolazioni diverse. Come mai, domande l'ISIS, il Daesh, il Qaeda e zitti questo periodo qua? Sì, no, mi scusi. No, per cui ottobre c'erano le sì. Su quei sì. Mi scusi. Le bandiere nere dell'ISIS. Con una fusione preoccupante. Sì, mi scusi. Sì, no, mi scusi, lei ha il diritto di avere, esprime il suo parere, tutto quanto, ho capito la sua naturalmente visione del mondo, è chiaro che il mondo è fatto così, però io dico ogni cosa ha bisogno di essere spiegata in un certo contenitore, perché altrimenti ci sono livelli, ci sono situazioni che vengono spiegate in modo diverso, perché altrimenti la cosa non stanno così. Cioè, come dire, oggi noi abbiamo una certa compagine governativa in molti paesi europei e in Italia, però poi dentro questi governi ci sono sfumature diverse, giusto o no? Ci sono delle sfumature diverse, ci sono sindacati in Italia, sindacati anche hanno sfumature politiche diverse, per cui questo è importante nel ragionamento di un sociologo, è importante tenere divisi i livelli, poi dopo ognuno arriverà alle sue conclusioni. Grazie. Non so, Franco, se ho esaudito. Sì. Ci sono altre domande? Sì, prego. Solo un chiarimento. Nel nostro mondo, qua in Italia in particolare, la Chiesa e gli ordini religiosi hanno avuto, adesso forse di meno, ma hanno avuto una forza economica molto grande. Io sono molto ignorante. Nel mondo arabo c'è una struttura simile? Lei è una domanda importante. Scusatemi se io non ho affrontato tutto, perché volevo in qualche modo inquadrare il ragionamento dentro la quale mi muovo. Allora, anche qui, la religione nel mondo, perché anche, per esempio, quando l'Europa dice ma noi siamo arrivati a separare la religione dallo Stato, bene, è avvenuto qua, perché ci sono diversi ingredienti storici, una certa dinamica storica, la Chiesa si è strutturata in una certa struttura, cardinali, vescovi, diocesi, chiese che controllavano le nascite, i registri di nascite, l'anagrafe, facevano i matrimoni, allora, giusto? Dall'altra parte nasce una nuova potenza interpretata dalla borghesia urbana che voleva spostare questa gigante, quindi voleva sostituirla con qualcos'altro. Nasce il comune, spesso in Italia il comune, l'edificio del comune di fronte al palazzo del vescovo. Quindi questa però è una storia, appartiene all'Europa, non lo possiamo andare a raccontare a una del Congo, è una della Bolivia, è una del Brasile, è una del Vietnam, perché hanno altre esperienze religiose, altre strutture religiose, altre evoluzioni storiche. Allora nell'Islam uguale, richiede un'altra cosa. Sì, c'è. Allora nell'Islam non si è sviluppata una religione così strutturata. Cardinali, vescovi, obbedienti, no? È nel bene e il male, è certo, è chiaro. Come può, no? Il protestantesimo, in secondo momento, dopo il 1500, dopo la riforma, si è sviluppato in modo, no? Non strutturato, no? Sono realtà abbastanza autonome. Quindi l'Islam si sviluppa in un, diciamo, ha avuto uno sviluppo plurale. Anche le interpretazioni, anche le scuole giuridiche sono plurali. Non ha struttura, non c'è un riferimento papale, non c'è un cardinale, non c'è un vescovo, no? E quindi anche la moschea non ha la stessa funzione della chiesa. La comunità, sono comunità autonome, decidono a darla. Ci sono stati tentativi tardivi durante l'impero ottomano, perché l'impero ottomano è un impero moderno. Ha cominciato a introdurre un ministero degli affari religiosi, ha cominciato a introdurre una specie di clero, anzi funzionari del ministero degli affari religiosi, che seguivano, no, tutti gli ordini più o meno, tutte le confessioni religiose, non solo i musulmani, perché l'impero ottomano era plurireligioso con l'impero austro-ungarico, per cui introduce delle riforme, delle innovazioni in base all'epoca, l'esigenza di quell'epoca lì. L'Islam arabo, un Islam un po' era interpretato da società mercantili, da quelli che viaggiano, da quelli che vanno, non è, da quelli che le prediche le fanno tramite i loro commerci. Quindi si struttura in modo diverso, è diverso. Quindi per cui poi non è nata una borghesia come una classe che aveva rivendicava una sua identità, che entrava in collusione con un ceto già strutturato. Per cui i due ingredienti non ci sono. Però questo vuol dire che non c'è le problematiche? La problematica certo c'è. Certo che un ceto religioso condiziona la politica. Anche se la politica moderna del mondo arabo sempre ha voluto, perché la politica, il religioso nell'epoca fino alla prima guerra mondiale sono paesi dove la singola comunità gestiva il suo affare, eh? In un totale autonomia, cioè il governatore, il sultano o il sceicco o il califo erano figure, si simboleggiava qualcosa, ma nella concretezza, nella vita concreta, la comunità locale. Quindi il religioso magari era il più sapiente, ma non perché aveva gradi religiosi, ha studiato in qualche seminario. Quello che sapeva un po' di più, magari ha potuto leggere il Corano, sapeva leggere qualche, no, qualche versetto del Corano, quindi diventa l'imam di quella comunità. Per cui sono strutture assolutamente diverse, perché sono evoluzioni storiche diverse, e ogni evoluzione ha prodotto degli ingredienti diversi. Per cui, e questo diventa problematico, come separare, che cosa si separare, perché qui c'erano due edifici, lì non c'erano due edifici, però la problematica c'è, nel senso che quando c'è una riforma, per esempio, del diritto della famiglia, i religiosi si impuntano, e molte delle riforme per quanto riguarda, per esempio, le proprietà private, i matrimoni, anche l'accedere delle ragazze alle scuole, sono state impedite dalle esponenti religiosi, per cui esercitano una funzione. Non esercitano. Prego. Solo una precisazione. Sì, prego. Nel mondo islamico, coloro che hanno una carica religiosa coincidono con i principi, sono appartenenti alla stessa categoria, quindi non cambia quasi niente. Allora, siete delle persone meravigliose, no, davvero, perché fate delle domande assolutamente pertinenti e importanti, però siccome qua ci sono anche orari, allora però rispondo, io, no, nel senso che è una questione di cortesia, perché mi avete ascoltato per più di un'ora, quindi, allora, il mondo arabo-islamico, al di là degli stereotipi delle cose, sin dall'inizio, dopo il profeta Muhammad, stiamo parlando del 600, il profeta Muhammad in qualche modo è del 622 al 632 dopo Cristo. Finita la sua epoca sono venuti quattro califi che vengono chiamati ben diretti. Diciamo hanno governato in Arabia Saudita. Quanto mescolavano, c'era il due ruoli, c'avevano il capo politico, l'arbitro politico e anche il riferimento religioso. Dopo la capitale si sposta a Damasco. Damasco cambia completamente. I califi venivano eletti dai dignitari, mentre quando si sposta l'impero a Damasco, qua siamo nel 668, credo, dopo Cristo, si instaura un regime monarchico ereditario che è contro i principi dell'Islam, perché l'Islam dovrebbe il governatore essere eletto dei scelto. Queste sono le innovazioni. Allora, per cui da quel periodo lì storico i califi si rappresentavano soprattutto il politico, mentre la vera autorità religiosa era da parte. Non a caso molti disponenti religiosi sono stati perseguitati dall'autorità politica quando non si assoggettavano al volere del principe. Quindi c'è stata sempre una rottura e anche una dialettica molto problematica. Poi l'impero ottomano produce le sue innovazioni, che il sultano diventa un po' rappresentante della comunità islamica, però nomina funzionari. E in qualche modo, questo esempio, in qualche modo calza con quello che avviene in Marocco. Il principe dei credenti, però un'autorità politica, in qualche modo come la regina d'Inghilterra, anche lei anglicana, presiede le chiese anglicane e poi anche una rappresentanza simbolica, ma come anche la monarchia svedese ancora simboleggiano, no? La religione luterana. Pensate che in Norvegia, un paese civilissimo, la religione ufficiale è luterana e si studia la religione luterana. Quindi anche un paese può essere civile, anche se la regina o chissà, no, rappresenta una unità. Queste sono delle tradizioni, però concretamente, no, le legislazioni di molti paesi musulmani, anzi di totalità di paesi musulmani, il codice penale in Turchia è il codice rocco. E così in tantissime altre materie sono regolamenti delle prodotti in Europa, sono stati esportati lì. Per cui il mondo è grande ma anche piccolo. Vi ringrazio tantissimo, ci vediamo il 14 gennaio. Thank you.